Allora parlo con la Zanzara, Radio 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Senti, ma io mi domando, io passo le giornate a rispondere a quelle persone che mi chiedono perché continuo ad ascoltarti. Io ti considero uno dei giornalisti più intelligenti della radio e poi tiri fuori delle puttanate che non so come fanno a venirti fuori, ma tu la riascolti la tua trasmissione quando hai finito di farla, alla sera, quando vai a casa, oppure boh, cancelli tutto e va bene così? No, ma c'è un errore in partenza, quello di considerarmi un giornalista intelligente. Mi offendi, no. Anche, no, mi offende questa cosa qua. Cioè, se uno mi dice ti considero uno dei giornalisti o dei conduttori più intelligenti della radio, detto in quel modo mi offende quasi. Cioè, io non voglio essere considerato intelligente. Se qualcuno mi dice sei intelligente, primo, penso che mi sta prendendo per il culo. Secondo, è una cosa che mi dà anche un po' fastidio, devo dirti la verità. Mi dà fastidio, non so perché. Oh, che ti devo dire? Se uno mi dice così, mi dà fastidio. No, sei un coglione. Sarò un coglione, ma mi dà fastidio. Ti piace di più così. Ti piace di più. No, se mi dice sei un coglione, almeno dice sì, può essere, c'è un pizzico di verità. Non, intelligenza è qualcosa che si può, come dire, non so come si fa a giudicare, no? Io non è che dico a qualcuno sei intelligente, non lo dico quasi mai. Cioè, non... No, io mi capita di conoscere gente intelligente. Sicuramente sì, vabbè, non ma è secondo il caso di Mauro da Mantova. Oddio, con sto Mauro da Mantova. No, ecco, su questo possiamo essere sicuri di questo, senza ombra di dubbio. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Proposito di Mauro da Mantova. A proposito di Mauro da Mantova. Possiamo fare però gli auguri a Berlusconi, intanto, sinceramente. Ma io non so, li farai tu gli auguri a Berlusconi. No, perché devo fare gli auguri a Berlusconi? Non si fanno gli auguri. Ma perché? Perché si deve operare, per un problema alla aorta. Vabbè, ma fai gli auguri se vuoi. Fai gli auguri, fai, io non li faccio a nessuno gli auguri. Facciamoli, ma... per umanità, un uomo che tanti auguri, presidente, rimettiti e torna a combattere, tu come un leone. Come Vabbè, ma che è sta roba qua che fai gli auguri a Berlusconi perché si deve operare al cuore? Allora facciamoli a tutti gli italiani che si devono operare al cuore, no, che caso ci prega? Oggi la notizia, perché è un personaggio pubblico, anche a tutti gli altri, certo, oggi questa è la notizia, Berlusconi ha rischiato di morire. Sarà operato al cuore, mi permetti da questa emittente radiofonica? Vabbè, d'accordo, devi leccare il culo pure a Berlusconi, e lecchiamo il culo pure a Berlusconi. Ma io sono insospettabile da questo punto di vista, ma mi ha colpito l'umanità. Ma ti ha colpito, ti ha colpito una persona. Stare all'ospedale con questo cuore debole. Va bene, una persona di oltre 80 anni. Leone forte, no, oltre 80 anni, no, di quasi 80 anni, una persona di quasi 80 anni che ha dei problemi al cuore. Mi sembra del tutto normale che si operi. Vabbè, speriamo allora, facciamo gli auguri. Speriamo vada tutto bene. Speriamo a quel paese anche lui. Ma non lo sto mandando a quel paese. A te piace solo andare a quel paese, tira fuori un briciolo di umanità. Ma andiamo no, avanti, ma ho capito che c'entra l'umanità, ma niente, perché devo... Non c'entra niente, andiamo avanti, dai, basta, mi sono già stufato, andiamo avanti. Mi hai fatto perdere il filo, filo. Allora, c'è qualcuno, schicchio. No, il filo del mio discorso del momento, cioè riesco a reggere 2 minuti, 3 minuti di filo, fammelo reggere almeno, no? Allora, Mauro da Mantova, signor Mauro da Mantova, uno dei protagonisti di questo show radiofonico, diciamo, uno di quelli che intervengono sempre, eccetera, eccetera, ha dei sospetti sulla morte di Bonanno. Non è vero. Sì, ti giuro, ha dei sospetti sulla morte di Bonanno. Caro mio Cruciani, Offer, che non l'ha vinto, Haider, incidente anomalo, Buonanno, incidente anomalo, unica cosa che mi viene in mente, lobby economico ebraiche, Mossad, punto, questa è la mia considerazione e non sbaglio mai. Chiami tu? Ma perché? Perché devi lordare? Parla più forte che sennò non si sente. Perché devi lordare l'inizio della trasmissione con queste stupidaggini? Perché? Perché? Perché? Allora, intanto ci arriva la notizia che, per fortuna, ma era una cosa logica, sì. Oliviero Toscani è stato assolto in Cassazione da chi lo aveva portato in tribunale per avere detto qui alla Zanzara: veneti popolo di ubriaconi. Oh, è arrivata la soluzione. Ragazzi, ma chi ve l'ha fatto fare a portare Toscani in tribunale? Dai. Voi non avete capito, o per meglio dire, non volete capire cosa significa la zanzara. Allora, dato che ci siamo, torniamo sul complotto, perché veramente qui si è raggiunto il massimo. Il massimo. Allora, ci sono una serie di personaggi coordinati dal solito Marcianò, che io ho soprannominato Merdanò, che significa propalatore di merda in giro. È un giudizio, non è un'offesa. Poi pare che Marcianò mi voglia portare in tribunale, cioè mi vuole portare in tribunale perché, ma magari, cioè perché gli ho detto Merdanò. Beh, ma come, perché? Perché è offensivo, dici? No, ma aspetta, allora no, lui è qualificativo. Allora, lui è... insieme agli altri, insieme ad altre persone, hanno realizzato una specie di filmato in cui, che ha oltre quasi quasi 70.000 visualizzazioni su YouTube, cioè sta crescendo, Anche se uno tira l'acqua, vedrai. No, ma arriva. senti che cosa dicono. Ti prego, senti che cosa dicono sulla morte di Buonanno. Ora io dico una cosa, ragazzi, voi non conoscevate Gianluca Buonanno. Vi avrebbe preso a calci in culo per questa puttanata. Vi avrebbe preso a calci in culo. Chiaro? Marcianò / Merdanò e gli altri autori di questa cosa qua. Vi avrebbe preso a calci nel culo. Le due auto accasciate al lato della carreggiata sembrano piuttosto sistemate successivamente. Accanto al maggiolino, sull'asfalto, si nota una traccia curvilinea lasciata da una terza vettura che pare entrare intenzionalmente sulla corsia di emergenza. Di certo il parlamentare leghista era personaggio inviso al consesso europeista che egli più volte aveva aspramente attaccato e irriso. Di certo il parlamentare europeo aveva ricevuto già i dovuti avvertimenti. Di certo è morto il giorno delle elezioni. Di certo ha subito lo stesso trattamento letale del leader di destra antieuropeista austriaco Jörg Haider, o quello, seppur non letale, del leader di destra antieuropeista inglese Nigel Farage. No, no, ma senti dove arriva il delirio, senti. Devono aver coinvolto Buonanno in un tamponamento di lieve entità. Il parlamentare è uscito dall'auto per constatare i danni e lo hanno investito. Poi hanno spostato i veicoli simulando un impatto più grave e inquinando la scena dell'incidente. Hai capito? Sì, hai capito? Sì, ho capito. Ho capito che la situazione è molto grave e gli ospedali psichiatrici sono pieni, questo io ho capito. Guarda. Ah, tu dici sono pieni nel senso che questa gente qui è fuori. È libertà. Mancano strutture, mancano letti, mancano appunto. Allora andiamo alla situazione di Rosarno, amico mio, la situazione di Rosarno. Esplosiva. Senti queste voci, ma che esplosiva. Senti queste voci di immigrati incazzati perché uno di loro è stato ucciso da un carabiniere, il quale, magari io adesso non so come sono andati fatti, ecco, semplicemente usa un'arma. Le armi sono fatte anche per essere usate. Questo, eccola, qua si è visto circondato, si è visto probabilmente minacciato. Non è che ha sparato a cazzo di cane, almeno così sembra, no? E senti le voci. Ha un'inchiesta che lo dirà. Per me non ci dovrebbe, essere nemmeno l'inchiesta. Ah, quindi la siamo alla solita. Io non, guarda, non ti sopporto più. No, ogni volta che c'è un morto c'è un'inchiesta. Non è che se un morto viene ucciso da uno. No, ma senti divisa, le voci. Senti, non sentiamo ste cazzi di voci ancora. Senti la voce. Hanno cortellato un carabinieri. Il carabinieri non aveva diritto di uccidere una persona che ha un cortello. Non si fa. Alla scuola della polizia dicono che si deve maîtrisare una persona che ha una arma bianca con delle metodi che possono, dovevano disarmarlo e basta. Ma come qualcuno fa? Sette carabinieri contro sette! E perché? Dove in massa? E sparare! Perché? Sette carabinieri contro uno, dovevano disarmarlo! Senti questa roba qua che dice Marcato, Lega Nord. Ah, Marcato, senti. Uno Stato serio, di fronte a una cosa del genere, manda l'esercito, prende in 1000 personaggi, li carica nelle navi, li rimpatria tutti, rade al suolo il campo e ci pianta un po' di piante di pomodori o clementine, ok? Questo fa un paese serio. Radere al suolo il campo profughi e mettere delle clementine. No, se delle... Non sono le clementine, lo sai almeno in Veneto cosa sono, no? Le clementine. Ma sì, le clementine sono di che sono? Di cosi? I mandarini sì. Senza senti Marcato ancora sulle pistole di carabinieri. Poveretto, guarda, poveretto. Ma perché poveretto? Perché è un poveretto. Dai. Radere al suolo. Ma raditi i neuroni che hai, l'unico neurone che ci cosa radi al suolo? Radere al suolo. Ma sì, perché è una follia avere. Ma che linguaggio di guerra? È una follia avere in Italia dei campi profughi abbandonati a se stessi, dai, su. Clementine. O le pistole ai carabinieri e alle pulizie, le diamo come, non so, per fare i fighi, però le sono finte, e allora benissimo, sono finte, le puoi usare solo lanciandole. Oppure, cioè, dobbiamo capire che se tu dai un'arma, serve, ok? Può sparare, perché serve a quello. Io e mia ragazza ormai, lei in Italia, io in Lituania, quando ci salutiamo non ci diciamo più quelle stronzate come mi manchi, ti amo, buonanotte amore, ma ci diciamo soltanto tra... La Zanzara. Adesso, David, io non voglio fare il professorino, però a me questa storia, come sai, delle donne uccise, la parola femminicidio mi fa orrore. Mi è capitato per caso oggi un dato, un link che ho aperto, qualcuno mi ha inviato qualcosa, non lo so, abbastanza chiaro che pone fine a qualsiasi discussione su questa puttanata, che si vogliono inventare i drappi rossi, le emozioni, le donne in pericolo, eccetera, eccetera, che per carità ci sono situazioni in cui sono in pericolo. Allora, i femminicidi sono in calo da 13 anni. Da 13 anni. Ma che c'entra? Come che c'entra? I femminicidi sono in calo da 13 anni. Cioè sono in calo. Chi ti ha dato questa statistica? No, ma non ti preoccupare. No, ma dato? Che c'è l'ufficio studi della Zanzara? L'ufficio studi Riccardo Poli. No, ma non dire stronzate. Roba. Vai a controllare. I femminicidi sono. Ma che di? Ma ho capito. Va. Ti ho chiesto chi la fonte. Fai il giornalista. Non ti preoccupare. Dopo te lo dico. I femminicidi sono in calo da 13 anni. Ti dico solo questo. Studi della Zanzara. Non ti preoccupare. Sarà pure l'ufficio studi della Zanzara. L'ufficio studi della Zanzara. I femminicidi sono in calo da 13. Non c'è alcuna emergenza. Cosa vuol dire? Posto che un morto è sempre un morto, e posto che un'uccisione, che non c'è alcuna emergenza, e ci sono gli omicidi le come ci sono sempre stati. Le donne feriscono per mano degli uomini, questo tipo di reato deve avere un nome, perché se non esiste un nome non esiste neanche il reato. Si chiama omicidio, punto e basta, mettiti l'anima in pace, le c'è chi vuole... Le cose vanno chiamate per come appunto, sono. Omicidio. Ti faccio un esempio, omicidio. Se uno è stronzo, sì, non va chiamato semplicemente sciocchino, altrimenti si monta la testa, va chiamato com'è. Senti, a Napoli è stato scoperto forse un voto di scambio che riguarda due neo consiglieri comunali del Partito Democratico. Ma non è normale, mi pare. Dai. Come, in che senso? Cioè, ti dici tutto normale, dici il voto di scambio? No, ma in che senso? Cioè, in che senso? Nel senso che chiameranno Parenzo, non viene andato. Cioè, a Napoli dici lo scambio. Però non è una notizia. Andiamo a riprendere le ultime elezioni degli ultimi 10 anni. Tutti i giornali, ogni volta c'è voto di scambio a Napoli. Al seggio c'è il signore che entra e vota, fa la foto, esce. E mostra addirittura che ha votato col telefonino, fa vedere per chi ha votato. È una cosa nuova? È una cosa razzista che stiamo dicendo? No, però dicendo? Senti questa roba qui, credo da Tagadà, questa testimonianza Tagadà, di uno che in queste elezioni, durante queste elezioni, ha fatto praticamente l'intermediario, ha guadagnato 2000 euro, dice, regalando a delle persone, che ne so, cioè varie cose, senti. All'interno devo portare il mio telefono e scattare una fotografia con il voto assegnato a chi di dovere. E i soldi li ho avuti all'esterno del seggio quando gli ho fatto vedere la foto. Quanto hai guadagnato? Ho circa 1.500-2.000 euro. E quanti ne hai portati? 50, 60, 70 più o meno. Amici, familiari, conoscenti, persone che avevano bisogno in quella mattina di 20-30 euro per fare la spesa. Pure se ci compravano voti anche con buoni spese da 7 euro. Al centro è stato un po' più difficile, mi hanno detto che sono stati pochi voti là a comprarli, però nelle periferie dove c'è più fame, più bisogno del 20 euro giornaliere, si sono stati comprati molti voti. Ha ragione Parenzo in questo caso, che novità c'è? Cioè, che se uno deve prendere 50 euro per votare un consigliere comunale o un consigliere di zona, che gliene frega, no? Cioè, si comprano abbastanza facilmente i voti in alcune zone. Ma è successo anche alle primarie del PD, c'è sta per tutti. Va bene, Marco, provincia di Milano, vai. Marco. Marco da Milano. Sì, volevo solo dire che in effetti lei, Cruciani, non è intelligente, è solo un... Non ho capito, scusi, si spieghi meglio. Ho detto che lei è un coglione sopravvalutato, ben lontano dall'essere intelligente. Quindi... Ottimo, bene. È contento d'accordo di aver detto questa cosa? Si è sfogato un po'? Sì, sono contento. È contento di aver detto questa cosa, sì, no? Sono contento. È realizzato finalmente? No. Sono altre le cose che mi realizzano. Ah, e allora perché chiama per dire questa cosa qua? Un po' si deve aver goduto a dirla, cioè no, gode. Mi dica in faccia, no, ma me lo dica in faccia, me lo dica chiaramente, sei un coglione. No, ma un coglione. Più di così cosa devo fare? Ah, bello, bello, bellissimo. Ripetimelo un po', che godo anch'io, dimmelo. Se basta questo per godere, sei lo so, un coglione. Sono malato, per cui ho bisogno anche di queste cose. Sono sicuro che lei è malato. Sì, dimmi questa cosa, sono un coglione. Lei è un coglione. Oh, anche sopravvalutato però. No, si sopravvaluta. Sì, ma veramente io non mi valuto. Ed è sopravvalutato. Sì, bravo. Sì. Ma caro amico mio, dimmi un motivo per cui secondo te sarei un coglione. Perché giocare su certi temi... Ah, ecco, si entra nel merito, si entra nel merito delle cazzate. Temi, ecco. Con una certa arroganza, una certa superbia. Tipo? Ma tipo sul discorso dei gay. Dei gay. Il discorso dei gay. A me non me ne frega un cazzo il di discorso questo, della di quello, politica. Dell'altro, dell'altra. Sembra che ma lei citami non qualcosa, ma citami, niente, ma, nessuno. Sì, ma citami qualcosa, ma citami qualcosa di concreto, amico mio. Il discorso sui gay, sulla politica, cose generiche, eccetera. Ma tipo esempio il discorso prima, no? Che ho cambiato canale. Sì. Non mi pare che hai cambiato canale. Diceva che giustamente, comunque ci sta del dire a una persona che può rappresentare il tutto, auguri per l'intervento. Sì. No, mi riferisco al discorso di... Beh, devo dire che mi hai fatto capire tutto. Sostanzialmente non sai nemmeno tu che cosa dire, cioè non sai trovare nemmeno un argomento. Devi semplicemente dirmi sei un coglione perché così ti riesci a sfogare. Adesso vai a casa, tranquillo, con la tua fidanzata, con la tua moglie, così riesci a sfogarti ancora di più, no, Marco? Di una superbia che al di là di ogni decenza... Sì, decenza. Che le hanno affidato una trasmissione che conduce... Sì. Discretamente da successo. Bene, adesso Marco, adesso vai a casa, fatti un bel tè caldo, dai un bacino alla tua moglie, poi va a nanna presto, perché mi sembra il caso, eh. Ciao tesoro, ciao. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10:30 con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Volevo chiedere a quel coglione di Parenzo, quando è che un uomo dell'ordine armato deve usare la pistola se non quando ti danno una coltellata in faccia? Caro stronzone, illuminaci! Ho trovato la soluzione! Diamo ai carabinieri anche un coltello, così accoltellano quando c'è un coltello, sparano quando c'è la pistola. Cazzo, è risolto tutto, no? Ma ste merda di questa comune d'Italia, perché non se ne tornano nei loro merda di paesi invece di venire qua a rompere i coglioni in Italia. La famosa pancia del paese, Parenzo, la famosa pancia. Sai del cosa produce la pancia in genere? Se che, tu produce? Non prendi... Che produce? Produce flatulenza la pancia. Allora ragazzi, il punto però è solo questo: non sappiamo esattamente com'è andata, da quello che ricostruiscono tutti, questo carabiniere lì in Calabria si sentiva minacciato da un tizio che forse aveva un coltello, forse aveva un punteruolo, eccetera. È già assurdo che si trovi, che si crei una situazione del genere tra gente che è lì ammassata, lavoratori che vanno a raccogliere i pomodori a Rosarno e forze dell'ordine. Non si capisce perché le due cose debbano entrare in contrasto, ma lasciamo perdere questo. A un certo punto, dopo quello che è avvenuto, ci sono state delle manifestazioni con cartelli con scritto FAC Carabinieri. FAC Carabinieri. Scusami, questo è abbastanza normale, capita anche FAC quando... FAC Carabinieri. Scusami, vecchio mio, questo ma tu è sei venuto qui e esponi un cartello FAC Carabinieri. Ma l'umanità è tutto italiani quale. Razzisti. Quando succedono incidenti allo stadio e quando... Ma che c'entra lo stadio? Sono altre cose. Quando il tifoso viene ferito dalle forze dell'ordine... Su. Succede anche di peggio, succedono delle rivolte. Ma chi ha detto che gli italiani non fanno violenze? Chi ha detto appunto, il contrario? Ti dico, è un ma che c'entra? Non c'entra nulla. Non è una peculiarità degli immigrati, è una peculiarità di chi lotta contro lo Stato, di chi non riconosce la legalità. Non c'entra niente l'immigrato. Vabbè, allora non c'entra niente. Un immigrato che espone un cartello FAC Carabinieri, scritto pure male. Scusami. Vabbè, FAC Carabinieri va bene. Ti sta bene che un immigrato esponga un cartello con scritto FAC Carabinieri? Non ho detto che mi sta bene, ho detto che non c'è da stupirsi perché come accade in altre sacche di illegalità del paese. Ma sono cose diverse. Perché esponi un cartello scritto FAC Carabinieri? Dovresti, sono cose diverse. Dovresti pensare a raccogliere i pomodori, a stare bene, a migliorare la tua vita, eccetera. A raccogliere i pomodori. È arrivato lui. Magari a fare un programma radiofonico. Ma raccogliere i pomodori non lo dicevo in senso negativo. No, lo dicevi in senso negativo. Magari assolutamente no. Dovresti auspicare che uno di questi migranti diventi un conduttore della zanzara. Assolutamente, perché no? Perché no? Questo potrebbe essere. Se è bravo, perché no? Se è bravo, perché no? Di questi migranti diventerà il conduttore della zanzara, un musulmano sarà direttore del Sole 24 Ore e via discorrendo. Adesso che cosa c'entra? Non è che andiamo non mi auguro niente, mi auguro che i più bravi emergano sempre. Che c'entra? Appunto. Ma cosa c'entra questo con quello che è successo? Non c'entra nulla. C'entra nulla. Tu dici senti che dice l'amico Librandi. Amico di chi? Tuo? Tuo amico Librandi, sciolta civica Librandi, senti. Ma ve la dovete prendere con voi stessi. Siete voi che fate venire le persone. Lei venga, lei è colpa vostra. Lei venga, sarà mio ospite. Non vengo, sono suo ospite. Ma siete voi che gli date 25 euro tutte le sere. Ma vergognatevi, no? Cioè, ma pensate, io ho un'azienda, non gli do 25 euro ai miei dipendenti. Non li faccio vivere nel lager. Poi dice che a Rosarno la sicurezza c'è. Quello è un lager creato con ampia responsabilità anche degli italiani, però cioè la polizia c'è, i carabinieri ci sono e c'è la sicurezza. Librandi contromarcato. Volevo dare un consiglio prima di tutto a Marcato, che magari se anche lui raccogliesse un po' di clementine gli farebbe bene alla salute. Guarda che io le forma le fisica. Caro no, perché tu parli e basta, sviluppi solo i muscoli della faccia. Le persone che usano questi immigrati, chiamiamolo così, gli italiani, colpevoli di pagarli in nero, colpevoli di invitarli a venire, sono gli italiani che causano questo problema, hai capito? Zuccone, devi saperle queste cose, no? Che capisci? Allora, ma che Europa, mi rendo conto ma cosa stai che dicendo? Stiamo parlando di clementine, di zucchero. Quelli che dovrebbero essere arrestati sono le persone che hanno fatto venire lì quelle mille persone. Che se sono lì mille, vuol dire no, devono arrestare che te, che arrestare, vuoi aizzare il popolo ogni sera carichi di trovare delle soluzioni, capisci? Tu fai ridere, sei ridicolo, come si fa a fidarsi di una così? Bella, allora, su una cosa però ha ragione Librandi, ha ragione su una cosa. Cioè, in realtà, perché non ci sono italiani che vanno a raccogliere i pomodori, per esempio? Cioè, ci dovrebbero essere tanti italiani pure che vanno a raccogliere i pomodori, invece di gridare alla disoccupazione. Invece li fanno raccogliere a persone che sono evidentemente sottopagate. Ma tutto questo è stato sempre tollerato. Cioè, queste specie di campi assurdi dove ci sono persone magari pagate in nero o semisfruttate. Allora, questa è una cosa. Però se tu tiri fuori in coltello, amico mio, e te sparano, ma che vuoi? Mauro, oddio Mauro, vai Mauro, Mauro, che è successo Mauro? Parenzo, preparati Mauro. Mauro, dimmi. Mauro da Mantova, dai. Tu mi devi spiegare come fai a dare ragione a quel coglione di Librandi. Cioè, come Rondolino e Geremica contano come due di coppe quando ci entrava la spada e i bastoni e denari. Ma maestro, che c'entra questo? Dai, su, Mauro. Ma come che c'entra? Perché, ascolta, ascolta, non mi dire dimmi. Che l'incidente di Buonanno è un incidente normale. Ancora costa sto. Dai, ascoltami su. Bene, io, Mauro, faccio il carrozziere da 40 anni. Dai, vai, malato di mente. Ho tamponato con una 112 Abarth. Sì. Una colonna a 95 km orari. Ma cosa c'entra? E non mi sono fatto un cazzo senza cintura e senza airbag, ok? Dai, ok? Mi spiegare 65 km orari come ha fatto ammazzarsi. Lo hanno investito dopo che è uscito. E la terza auto dov'è? È dai, un fantasma? Su, Mauro, dai, su, ma che cazzo... No. Ma dai! Non è dai! Guarda com'è! I fatti, lo svolgimento dei fatti. Dai, Mauro. No. Lui sa che cos'è che ha pagato? Cos'è? C'era un parlamentare europeo fortemente contro l'Europa. Ma ha pagato cosa? Ha fatto un incidente con la macchina. Ma di sai chi è stato? Aspetta. Sai chi è stato? Chi è stato? È stato Juncker. Ma è stato Juncker, è stato. Ma come puoi morire a 65 km orari? E poi, scusa. Come hai fatto a morire senza cintura? Te l'hanno investito fuori. Che cazzo c'è? Ma chi te l'ha detto che l'hanno investito fuori? Ma chi te l'ha detto che l'hanno investito fuori? Ma di che cosa stai parlando? Di cosa? Ma che cosa hai letto? Ma tu hai visto le scene dell'incidente? Ma dai, su internet. Ma dai, vedere su internet. Sì, ma chi è stato? De Benedetti, chi è stato? Scusami, ispettore Derrick. Non è stato tanto. È stato solo quei parrucconi. Lobbisti parrucconi comportisti europei che non vogliono che salti l'Europa, semplice, come ha fatto con ma Alder. Cosa c'entra Buonanno? Ma Buonanno non ha fatto con Buonanno. Ma sei impazzito, Mauro, dai. Ma sei impazzito? Anche tu stai raccontando, cercando di raccontare una verità che non esiste. Ah sì, la verità che non esiste. Dunque la polizia stradale e questi qua che si sono in me. Ascolta. Cruciani, non farmi gelare i coglioni. Tu vatti a vedere, ti ho mandato che messaggio in WhatsApp. Vatti a vedere quei siti. Ma ho visto, ma sono follie da ricovero. Ma credi tu? Sì. Ma non ti fa comodo crederlo tu. E chi è stato? De Benedetti? Chi c'è dietro? De Benedetti, chi c'è? Ascolta. Che ti sei mai chiesto perché il papà di Dori Al-Fayed dall'Inghilterra? Non te lo sei mai chiesto perché? E perché sei andato all'Inghilterra? Papà di Dodi Al-Fayed. Gli hanno stecchito il figlio, gli hanno stecchito. E allora? Il papà di Dodi Al-Fayed. Non gli ha mai dato, con tutte le tasse che ha pagato con i magazzini Arons, non gli ha mai dato la nazionalità. Ma anche di questo si intende. E gli hanno ucciso il figlio. Anche della morte di Lady Diana. Gli hanno ucciso il figlio. Da Mantova. Perché non volevano. Hai capito? Scusami. Aspetta. Che il figlio della regina diventasse musulmana, o che avesse un figlio o un fratellastro musulmano, aspetta, in futuro alla Inghilterra. Aspetta. Questo si sa. Vabbè, si sa, sì. Parenzo, che dici? Non ho capito. È stata la regina, si sa. La regina con la strofa, è stata lei, si sa. Pagata dagli americani. Ma cosa c'entra adesso, scusa? Mauro, un attimo. Possiamo pagargli delle cure psichiatriche a questo punto? Mauro, dimmi. Ecco. Possiamo pagargliele? Hai visto il messaggio che ci ho mandato? No, adesso non leggo. Allora, ma che messaggi ti manda questo? Ma anche i messaggi ti allora, manda? Allora, sei pazzo? Io ti ho mandato un messaggio. Sì. Io ti ho detto che appena trovo quello psico cesso brutto, orribile nano che fa cagare, che è brutto come la fame. Ma chi è? Come i debiti. Chi è? È brutto come i debiti. Ah, Parenzo. È brutto come i debiti. Quando lo trovo, io lo piglio schiaffo e lo pugno in faccia. Sì. Vabbè, ma questo... pensa a quello di Cremona, sì, e lo prende a calci in culo. Vabbè, ma questo è che capito? C'entra, scusa. Ascoltami, adesso. Ma come si fa a vivere con il cervello pieno di vermi? Aspetta. Come fai a vivere col cervello pieno di vermi? È talmente antipatico sto coglione, che tira le sberle e calci a due a due fin quando c'è un disco, sei imbecille. Parecchio. È una merda, che non dovrebbe stare lì, dovrebbe andare a faticare, a sgobbare. Ma gli ebrei sono abituati a vivere della... Ma non dire cazzate, dai, su. Adesso dove ti sei, ma dove ti sei inventata sta cosa dell'incidente di Buonanno? Dai, fermo lì, vai, ciao. Crociani, la mia ragazza ti odia. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Luciani, rompi a tutti le scatole, mettiti bene con il telefono, leva il viva voce, via le cuffiette. C'è sto deficiente del tuo collega Parenzo che parla dentro una cantina con imbuto davanti alla bocca, non si capisce niente e gli dici niente. Cacciatelo via! Allora andiamo sempre a Manto, vai Luca, vai Luca. Sì, ciao. Dimmi, dimmi. Ho chiamato per il sussidio. Sì, amico mio, però non ti si sente, per cui o ti metti meglio, ti levi l'auricolare, non so se sei in viva voce, perché altrimenti non si sente. Si sente? Sì, meglio, vai. Sì, ho chiamato per il femminicidio, hai perfettamente ragione, sì. Non ci sono i numeri, diciamo che in Italia ci sono... 90.000 separazioni consensuali all'anno, 53.000 divorzi, tra gente che si molla, prendi conviventi, non conviventi, morosi, palle varie, saranno 400.000 all'anno. Allora? L'anno scorso ci sono stati 128 cosiddetti femminicidi, sì. Vuol dire che la percentuale, la probabilità di essere uccisi dal consorte o amante, morosi, eccetera, eccetera, è di 1 su 3.000. Ma adesso praticamente... perché queste statistiche a cosa servono, scusa? Servono per sento dire che sei che particolarmente informato. No, ma perché ho fatto due numeri proprio perché... Ma guarda, me l'hanno detto tutti adesso, non ci sono i numeri per poter dire che c'è un'emergenza. No, cioè, è più rischioso andare a fare un giro in bici in statale, sì, e non essere uccisi dal proprio consorte, perché è chiaro che un omicidio è censurabile, terribile. No, vabbè, ma questo lo sappiamo, ma se uno dice l'emergenza, però, ho sentito pure infatti, prima, non so dove, l'emergenza. Cioè, l'emergenza è ogni omicidio è un'emergenza, ma non esiste, non esiste un escalation, non c'è niente, sono in diminuzione gli omicidi delle donne, in diminuzione. Ma non vuol dire nulla. Non vuol dire niente. Allora, vuol dire solo quello che dici tu. Ma a valore ma solo no, quello che dici tu. No, quello che avanti. Dico io, figurati, non è quello che dico e io. E allora? Dico semplicemente che non è che siccome sono diminuiti, allora non ha senso avere un reato specifico che condanna. Senti, in Parlamento la c'è qualcuno sulla donna. Ecco, questa tutto è una puttanata. Questa è una puttanata. Questo, perché se uno deve mettere 5 anni in più semplicemente perché un uomo ha ucciso una donna, si arriva alla follia. Si arriva alla follia, ma non c'entra niente. Il diritto tutela il debole sul forte. Ma se a te piace una cosa così, ma va bene. Se sei d'accordo con quella deputata, ma non è politicamente corretto, non c'entra niente, è una questione logica. Tu non puoi mettere 5 anni in più perché uccidi una donna, non vuol dire nulla, è una come stronzata. No? È un aggravante. Vabbè, amico mio, se ti piace così. La donna è il sesso della parte debole. La cosa debole, eccetera, eccetera. Va bene, dai, ma le solite stronzate. Una donna che uccide un uomo. No, ma va bene, ma voi volete fare questa roba qui, ma fatela, mettete 10 anni in più, ma va bene, ma chi se ne frega. Sui fatti. I fatti dicono che non esiste un escalation di femminicidi. Hai visto donne che uccidono uomini? Ma questo non vuol dire nulla. Questo non vuol dire niente. Donne che uccidono questo con non vuol dire niente. Uomini. Ma questo non vuol dire nulla. Il che vuol dire che c'è uno specifico dell'uomo. L'omicidio con brutalità è già condannato dal codice, non c'è bisogno di mettere anni in più. Un omicidio, come dire, terribile, un omicidio con ferocia è già condannato. Certo, ma se lo metti l'aggravante della violenza dell'uomo. Ma non c'entra niente, ma è una follia. Sulla donna, ma è una sanzionato, vabbè, ha vabbè un senso perché vabbè tutela ma ancora se ti di più una figura. Se ti piace così, ma va benissimo. Se ti piace così, questa banalità. Ma non mi fa male, è una banalità, è una follia giuridica. È talmente banale che ti fa arrabbiare. Va bene, d'accordo, ma non mi fa arrabbiare, mi fa arrabbiare la stupidaggine. Ma la stupidaggine mi fa. Ma qual è la stupidaggine? La stupidaggine è pensare che ci vogliono. Una donna che ha ucciso l'uomo. Ma non c'entra nulla questo. Di casi in cui Mauro da Genova massacrano gli uomini. Mauro da Genova, questo non c'entra nulla con l'aggravante. Mauro da Genova, non c'entra nulla con l'aggravante. Sai cosa ti dicono quando fai un corso di autodifesa per me, per noi normali comuni cittadini e ti trovi davanti a una persona col coltello? Che ti dicono di portare via il culo velocemente, anzi il più veloce possibile. Sì. Avere un coltello in mano è pericolosissimo, cioè affrontare una persona con un coltello in mano. Sì, ma quello è un carabiniere, però, eh? Quello era un carabiniere. È un carabiniere, e quindi che cosa fa un carabiniere? Non può pensare di provare a disarmare e prendersi quattro coltellate nella pancia, soprattutto se pazzo. Deve difendersi, deve difendere altri carabinieri che sono lì, altre persone che sono lì, e inevitabilmente deve uccidere, deve sparare, possibilmente per non uccidere. Non lo so, questo non lo possiamo sapere, quello che è successo. Ovviamente esatto, non lo puoi sapere. Però è una follia che in questa situazione, oggi, con delle persone che sono lì, mangiano il pane a UFO e li aiutiamo, li sosteniamo, li prendiamo da quel cazzo di mare. Ma questi in realtà non sono manco immigrati, cioè sono gente, sono lavoratori che raccolgono i pomodori e vivono in questo campo di accoglienza, eccetera, eccetera. Perfetto, ma non puoi affrontare una persona, chiunque ti direbbe che non puoi affrontare una persona col coltello. Io quello che vedo, e spero che non succeda mai, è che questa persona che purtroppo è morta in questo incidente, domani succeda qualche cosa come è avvenuto con Placani, che non so se ti ricordi tanti anni fa al G8, certo. Che addirittura si è fatto una vita, si è fatto anni di infamia e di poveretto, povero ragazzo, perché si è dovuto difendere da uno che gli ha tirato. Ma questa è un'altra questione. Ciao, non è un'altra cosa. È un'altra cosa. Sergio da Lecce, vai Sergio. Ciao Cruciani, e anch'io volevo intervenire sul fatto di... Vai, dimmi. Volevo dirti questo, ma scusatemi, ma in un paese normale, se uno ha un coltello, sia esso extracomunitario, lavoratore, sia un professionista come me, in giacca e cravatta, se un rappresentante delle forze dell'ordine gli intima di mollarlo il coltello, può essere una chiave inglese, può essere un bastone, può essere un tubo, questo lo ha da mollare, lo deve mollare. Se non lo molla, cazzi, scusate il termine, cazzi suoi. Ma porco Giuda, e vi giuro, non è perché davanti c'aveva un extracomunitario, ma chiunque avesse avuto davanti, giallo, nero, bianco, italiano, straniero, americano, alieno, quello che cazzo volete, ma scusa, dare addosso a questo perché ha sparato a uno che l'ha minacciato e forse l'ha anche tagliato col coltello, ma siamo fuori dalla grazia di Dio? Chiunque in questo paese, comunque arrivi, qualsiasi cosa faccia, deve rispettare le leggi di questo paese. Ma è ovvio. È naturale che deve no, ma è così, ma mi sembra che ragazzi, cioè stiamo facendo la polemica sul niente. No, ma la cosa incredibile è un'altra, che ci siano le manifestazioni con la gente che mette i cartelli fuck carabinieri, appunto. Capito? Cioè, che cazzo significa fuck off carabinieri? Ma cosa cazzo significa? Scusatemi. Ciao Sergio, ciao. Dalla grazia ciao, di Dio. Ciao. E qualcuno dei qualcuno che gli dà voce. Ciao, ciao, Francesco Genova, vai. Beh, Cruciani? Vai, dimmi. Allora, scusa, io volevo parlare del femminicidio, che credo che sia giusto fare una legge di quel tipo, perché il femminicidio è vero che è un omicidio, ma come dire, è l'atto estremo. Dietro il femminicidio ci abbiamo stalking, ci abbiamo violenza. Ci sono reati già condannati, è tutto già previsto, aggravare la pena, scusa, lasciami finire. Bravo. Significa agire anche su queste cose. Ma quando mai? Ma non dire stronzate. Già ci sono, già c'è no, il reato. Non è una stronzata, esiste... è una stronzata quella che dici tu. Esiste il reato di stalking, esiste il reato di tutto quello ma che dici tu. Ma non vuol dire cominciare a creare una cultura e scandalizzarsi di più quando qualcuno uccide una donna. Ma chi è che non perché si scandalizza? Ma chi non si scandalizza? Ma che dici? Ma che dici? Come dire... dare ridondanza a queste cose. Mai, se tu la licenzi con un semplice omicidio, non diamo la giusta ridondanza e non agiamo sugli altri reati. Vabbè, ciao Francesco, ciao. Ciao. I'm a real wild one. Wild one. Allora, c'è una frase pronunciata dal medico di Berlusconi, Alberto Zangrillo, che oggi ha detto che Berlusconi ha rischiato di morire, che c'è stata un'insufficienza grave, che ci sarà questa operazione, eccetera, eccetera. Una frase significativa, al di là delle cose, dei bollettini medici che vengono comunicati. Deciderà lui, dice Zangrillo, ma io sconsiglio continui a fare politica. Cioè il medico gli dice, lui può decidere quello che vuole, ovviamente, ma evidentemente lo stress provocato dalla politica, io gli sconsiglio di continuare a fare politica. Allora, intanto Andrea da Viterbo. Vai, Andrea, dimmi. Beh, questo. Andrea. Ciao, Luciani. Dimmi, dimmi, Andrea. Ciao, ciao. Ti volevo dire una cosa, è più a Parenzo che a te. Volevo sapere dal dottor Parenzo se conosce l'articolo 53 del codice penale. Vabbè, dai, adesso non entriamo nel codice penale. Andrea, che cosa dillo tu, dai. In merito alla costellata che... E quindi? Ha dato al carabiniere. Sì, a parte che non si sa se gli ha dato la coltellata, cioè, ma ho visto delle foto su Facebook che avevano postato. No, ma guardi che colleghi, ho visto che hanno postato delle foto. Sì. E si è stata data una coltellata vicino all'occhio, tra l'altro. Ma guardi che guardi, scusi, amico mio, che l'uso legittimo delle armi, specie sulla difesa, è regolamentato. Propria del pubblico ufficiale. Ti chiama se lei avesse preso una laurea in giurisprudenza, lo saprei. Io però le sto dicendo che l'uso, le ho esattamente risposto sull'uso legittimo delle armi, ma non mi interessa a questo punto. Io ho detto un'altra cosa, però purtroppo, siccome lei non ha i cotton fioc per pulirsi le orecchie, evidentemente non ha sentito perché ha del cerume giallo e stamattina non se li è lavate come Cruciani. No, io mi lavo sempre. Però allora evidentemente vada dall'ottorino alla lingoiatra, perché io ho detto un'altra cosa. Ho detto che, come in qualunque caso, quando c'è un morto stecchito per strada o in casa, sì, interviene l'autorità giudiziaria. Ho detto una cosa anche banale, mi fa vomitare ripeterla perché è banale. Quindi non ho detto ha ragione il carabiniere, ha ragione quello che l'ha ucciso, non ho detto nulla di tutto. Ho detto che è normale e deve essere così che l'autorità giudiziaria cerchi di ricostruire come è successo, capito? Questo ho detto, ovvio, salame d'un salame. Vabbè, invece Andrea, tu siccome sei un invece pubblico... Andrea che è un salame d'un salame, no, è un carabiniere. Perché mi deve insultare? Perché mi deve insultare? Che cosa sei, un poliziotto? Cosa sei? Quindi io lo insulto. Cosa sei, io Andrea? Rispondo all'insulto. Non lo posso dire quello che sto. Vabbè, sei delle forze dell'ordine, uguale, se mi dici sei un poliziotto, un carabiniere, un carabiniere, un finanziere, non è un problema, dillo. È uguale, sì, fra quello, i carabinieri, finanza, polizia. Nessuno accusa la polizia sull'uso legittimo della forza, ma lei sa meglio di me. Ma quello che dico è sì. Perfetto, l'atto dovuto, l'inchiesta e tutto quanto. È questo, quello che detto. Però non deve passare è che minacciato da un coltello non si possa rispondere con l'arma da fuoco. Ma ha mai sentito dire una cosa simile? Ma era passata per qualche ascoltatore, non so se l'aveva detto. Ma lei, perché, non so se l'ha perché detto quelli lì, poveri, gli ascoltatori, poveretti, hanno un quoziente intellettivo che è più basso del mare, della fossa delle Marianne. Ma che ne quindi... sai, sì, gli ascoltatori quali? Ma che dici? Sei no, impazzito? Quelli che ha chiamato prima, non tutti in generale. Andrea, non ho no. capito, tu stai quelli dicendo da conoscitore di queste cose che, se Andrea, sto dicendo da conoscitore di queste cose che ti sembra chiaro che è legittima difesa o no? Chiarissimo. Vabbè, è ovvio che tu minacci la mia vita con coltello, non lo dico io, lo dice il codice penale. Minaccia la vita, io rispondo. Va bene, ciao Andrea, ciao, ciao, ciao. Allora, Paolo Crepè con noi, buonasera, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Ottimo. Ottimo, senti, voglio chiederti subito una cosa, Paolo, ma la questione del femminicidio, no? Dell'omicidio delle donne, qualcuno propone addirittura in Parlamento di mettere un aggravante, a me sembra veramente una cosa folle, cioè mettere una pena in più perché si uccide una donna. Adesso non stiamo qui a discutere della gravità, le cose, non ce ne frega niente, è tutto chiaro, nessuno vuole dire che non è grave ammazzare una donna, figuriamoci, però la cosa fondamentale è che qualcuno sostiene, compreso Parenzo, che ci vogliano degli anni in più previsti nel codice se uno ammazza una donna. A me sembra una cosa ridicola, o no? Beh, non ne capisco il motivo, cioè se uno ammazza una donna c'è un codice che prevede una pena molto grave, semmai farei delle altre cose, semmai eviterei patteggiamenti per violenza sessuale, queste cose qua, se vogliamo fare qualcosa contro la cultura macista imperante, perché questi sono chi ammazza una donna è un impotente, e quindi un impotente in che senso? È che non può, non ce la fa, quindi non ce la fa, siccome è inferiore alla donna, ma non è che non ce la fa, ha una concezione proprietaria della donna, non nel senso sessuale. Sì. Che quello è un riflesso abbastanza banale. No, sto parlando della condizione culturale di quella persona che, non essendo capace di essere al livello di quella donna che è libera, perché è tanto libera da aver deciso di chiudere quel rapporto, quell'uomo essendo molto più vicino alla scimmia di quanto di quanto è, e quindi reagisce da sì, ma non c'è, non c'è bisogno di mettere una pena in più, assolutamente, no? No, basta dargli 35 anni. Ma sì, ma normale, io non capisco, perché... capisco cosa vogliamo dare. Ma in Parlamento 80, addirittura c'è un deputato del PD che propone di aumentare la pena. Sono tutte bandierine che vengono messe lì. No, non ho capito, perché invece se si ammazza un bambino, no. Ma ci sono già le aggravanti, omicidio, però... Ci sono le aggravanti, si usano, appunto, sì, esistono le aggravanti, no? Esistono le aggravanti. Ma sì, omicidio con ferocia. No, ma io, professore, scusami, lo saluto, professore, mi piace molto, professore. Prego, buondì. No, a me professor Crepia piace moltissimo, Veneto, vabbè, professore poi... intelligente. No, dico solo questo, che secondo me se tu dai un nome alle cose, quindi crei un reato specifico in questo caso, gli dai anche più dignità e peso a quel tipo di azione criminale. Questo vabbè, io ma dico. Che c'entra, dai, per... su. Ma... No, no, il discorso di dai il tutto nome il mondo cose, condanna queste sì. cose qui, non c'è bisogno io, di... Io quello che su cui rifletterei è... È il fatto che, per esempio, sì. a Taranto, il signore che ha ucciso la ex moglie o la moglie, adesso non ricordo, e poi si è ucciso, era stato condannato per violenza sessuale, eccetera, sì. e ha patteggiato. Sì, quello sì. Questo è un problema. Allora bisogna evitare di prenderci in giro e di far sì che una persona che abbia avuto questo tipo di reato condannato per questo tipo di reato possa stare questo addirittura aveva ottenuto che non fosse nemmeno scritto sul suo casello personale queste sono le cose che vanno condannate e tolte, perché questo è contro la dignità della donna. Senti Paolo, ma tu voti a Roma? Sì. E chi voti? Voterei a Roma. Perché? Allora non voto la Raggi. Perché? Ma per una questione, ma perché ho letto il suo programma, sono messo là 11 passi per Roma, ho letto riga per riga, sì. è un vuoto pneumatico. C'è un vuoto totale, dice. Totale. Poi ho sentito che qualcuno dice aria fresca, questa è aria fritta. Ti sembra scritto? Ma guarda, lo potremmo scrivere io e te... con due bicchieri di vino. Per favore, non mi offendere. No, i programmi elettorali sono talmente ridicoli. Ma nel senso che proprio la mattina 5 minuti e dici che ci vogliono le piste ciclabili poi non nomina neanche la metropolitana, che è un piccolo problemino della città. Sì, però bisogna dire una cosa, i programmi non contano un cazzo, come tu sai, no? Cioè, allora che facciamo? Allora non votiamo. Si vota così, ma si vota perché contro il PD a favore del cambiamento. Cioè, sono tutte delle speranze, no? Delle speranze. Aspetta, tu sei una persona molto interessante. Cambiamento di una città. Non stiamo parlando delle elezioni europee, giusto? Sì. Stiamo parlando del cambiamento di questa. Siccome io ci vivo in questa città da 40 anni, so qual è il problema. E vorrei che qualcuno rispondesse dei problemi. Vabbè, ma allora non ci vai nemmeno. Non ci vai. Ma non lo so, a votare quella signora no. Allora. Nella maniera più assoluta proprio non ci penso, ma neanche da ubriaco. E poi se è il caso voto per quel signore che almeno ha scritto un programma, ma non per partito preso, almeno ha scritto un programma dove c'è scritto dove va a finire il tram. Però capisco che questo non gliene frega niente, no. Dove va a finire il tram, no, perché questa qua prenderà molto probabilmente magari il 60%, perché l'altro è identificato. Io ho capito, però tu che hai una persona che è ammalata all'ospedale e arrivi con un treno, vorrai avere un tram che ti porta a quell'ospedale, no? Vabbè, ma adesso non è che puoi pensare che i grillini la Roma in mano ai grillini, che fine fa Roma in mano ai grillini secondo te? Ah, la migliore secondo me, cioè? 100 giorni e 100 giorni nessuno li voterà più. Fermo un attimo, fermo lì pubblicità. Siete goduria. La Zanzara. Allora Davide, ho un po' di cose da dire importanti, molto molto importanti. La prima è questa: è nata tutta una discussione sull'appoggio di Salvini a Grillo, eccetera. Tutto nasce da quello che Salvini ha detto qui alla Zanzara lunedì sul fatto che avrebbe votato a Roma, lui fosse stato a Roma o a Torino, la Raggi e la Appendino. Adesso si parla addirittura di un asse inesistente, ovviamente, tra Movimento 5 Stelle e la Lega, con cui dei 5 Stelle che un po' si scandalizzano. Addirittura Borghezio ha detto che voterà la Appendino a Torino, da candidato dei 5 Stelle. Seconda cosa, mi ha fatto molta impressione la notizia di questa ragazza di 16 anni che è morta. Per questo le città italiane sono sostanzialmente irriformabili. Perché quando in una grande città come Roma, ragazzi di Siriani morta per overdose in un ex ospedale ridotto praticamente come fosse lo zoo di Berlino del famoso film, no? Cioè quando un ospedale, praticamente non dico al centro di Roma, ma un ospedale importante come l'ex Forlanini, credo che si trovi nella zona di Portuense, cose di questo tipo, viene completamente abbandonato e lo si sa, cioè le forze dell'ordine, tutti sanno che è abbandonato, aree vastissime in mano a criminali, spacciatori, tossicodipendenti e chi più ne ha più ne metta. Dico, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè, ma l'amministrazione dov'è? Il controllo del territorio dov'è? Irriformabile, totalmente riformabile una città, totalmente ingovernabile. L'altra cosa è la ridicola polemica che c'è a Napoli su Gomorra. Hai visto le ultime puntate di Gomorra? Come no, ieri sera, io l'ho dovuto vedere, ecco, ieri perché è bellissimo. Crepelo, vedi con Gomorra, Paolo? L'ho visto qualche volta, sì. Allora, nell'ultima puntata c'è una scena meravigliosa con Chanel, una delle protagoniste, che è una camorrista, una di quelle che appartiene a questa alleanza che poi si sfalda, si ammazzano tra di loro, eccetera, eccetera. Adesso non donna posso volgarissima, bruttissima, donna, grassa. Certo, assolutamente, una donna brutta. Brutta, una. Cattiva anche, proprio cattiva. Vabbè, sì, è una camorrista, sì, una camorrista napoletana di 50 anni, eccetera. Un bellissimo personaggio, devo dire, dal punto di vista... Molto. Dal punto di vista teatrale, dal punto di vista della sceneggiatura. A un certo punto si mette quando fai anche il critico cinematografico. No, ma si mette a ballare a un certo punto, adesso non vi racconto, perché con un meraviglioso vibratore d'oro che sta lì a significare la volgarità, la ricchezza, no? Si fanno fare anche i vibratori dorati, no? Questi camorristi. E non si riesce a capire perché sono saltati addosso a Gomorra e a questa agli autori, eccetera, alcuni personaggi. Per esempio, un consigliere regionale dei Verdi in Campania, che evidentemente non c'ha un cazzo da fare, si chiama Francesco Borrelli, il quale, senti cosa scrive, una cosa incredibile, senti cosa scrive, cioè, consigliere regionale dei Verdi in Campania, cioè uno di maggioranza, uno che sta con De Luca, eccetera, non ha niente da fare durante il giorno che spendere il suo tempo a scrivere un lunghissimo post su Facebook. Serve, senti, la scena di Chanel che canta col vibratore serve a far apparire le donne napoletane volgari e luride dal punto di vista sessuale. Dopo aver rappresentato una Napoli disperata e governata dalla camorra, senza mai la presenza dello Stato e delle forze dell'ordine, adesso i produttori di Gomorra hanno deciso di farci apparire come dei deviati sessuali. Ora, deviato sessuale evidentemente è lui, perché non si capisce qual è il motivo per cui una non possa utilizzare in una liberamente il vibratore. Cioè, no. Ma qual è la deviazione sessuale? Non ho capito. Utilizzare il vibratore? Cioè, qual è l'offesa alla donna del sud, alla donna meridionale? Crepe, aiutami tu, ti prego, Paolo, aiutami tu. Secondo me perché era d'oro. Ah, tu dici perché è d'oro? Ma non lo so, a me sembra... Mi sembra una scena straordinaria, metaforica. Ma l'hai visto tu, lo vedi? No, non ho visto quella cosa lì, ma l'ho vista su un trailer. Sì, è fantastica. Ma infatti ho trovato una scena fantastica. Gomorra è la realtà. Adesso che poi i napoletani e i limitrofi si scandalizzino di questo, ma l'altro giorno a Ponticelli ne hanno ammazzati due, di cui uno pare che manco c'entrasse. C'era una ragazza che era sul balcone a aspettare il fidanzato, si è presa due pallottole. Questa non se le inventa uno sceneggiatore, se ne inventa la realtà. Sì, dicono che dà un'immagine. E dopo, il sindaco di Napoli uscente e rientrante, sì. Non parli di queste cose, è un problema del sindaco di Napoli, secondo me. Sì, senti, se avesse fatto qualche cosa, probabilmente... Scusami Paolo, che ci sia anche una responsabilità di chi... Ma tu quando vai a Napoli sei tranquillo? Beh, guarda, io ci ho pure insegnato a Napoli in tempi molto difficili, no, assolutamente no. Naturalmente bisogna sapere conoscere le strade. Rispetto ad un'altra città, prendi le tue precauzioni. assolutamente. Cioè ci pensi, cioè arrivi Milano, in treno, ci pensi. Non è che Milano in certi quartieri alle 2 di notte. No, vabbè, che alle 2 di notte è tutto pericoloso, che c'entra? Sì, potenzialmente pericoloso. Però se, sì, vai a Napoli, se vai a Napoli è in maniera mortale. Ecco, forse la differenza è che lì è proprio mortale. Sì, sì. Ma è recuperabile Napoli, secondo te? Ma volendo sì, però con cose tipo, non so, esercito, con cose enormi, con cose enormi, impiego di forze, di denari, che non so se un'amministrazione centrale o regionale abbiano voglia, perché poi il problema è anche volerla questa cosa, perché poi la Gomorra è anche una enorme economia che fa girare soldi. Allora, ragazzi, noi però non ce la dimentichiamo mai, non ce la vogliamo mai dimenticare, Eleonora Brigliadori. Certo, io per esempio mi sono curata dal cancro senza chemioterapia e sono viva e vegeta a 21 anni dall'89, da lì sono diventata vegetariana. Ma siccome gli interessi sotto fanno sì che questo debba rimanere, perché c'è il business, è un'offesa al mondo, e allora la verità, il mondo della ricerca 100 anni fa diceva il contrario. Basta. Dopo anni di fare ricerca, la mia vita non è una stata, la morte di mia madre non è una. Basta. Centinaia di persone sono morte così. Basta. E non sono qui per dire bubole come ho sentito fino adesso. Tutto quello che gli scienziati di oggi, che io rispetto, che studio, perché leggo tutto quello che dicono, vedono nei loro laboratori, quando una sostanza entra nel corpo umano si comporta in un modo completamente diverso. E quale da sostanza? Quello. Fammi un esempio. Allora, se io bevo un bicchiere d'acqua, l'acqua, vabbè. Per esempio, bevete il primo bicchiere d'acqua e provate un'esperienza. Se subito dopo ne bevete un altro, quel bicchiere d'acqua non va più dove è andato il primo. Perché? Che chi eri in una vita precedente? Ero un uomo. Ed era un artista che aveva sognato di volare, tant'è che la mia incarnazione di questo tempo ha scelto un padre che mi ha permesso a 16 anni di essere la più giovane volovelista italiana. Poi ho studiato la meteorologia e adesso sento nel mio corpo eterico le stesse forze che vedo agire nel corpo eterico dell'aria, dell'atmosfera. Il corpo eterico, non me lo potrò mai dimenticare, il corpo eterico. Crepetti, prego, tu che sei un fine conoscitore della testa e del cervello. Ho un ricordo di questo signore di tanti anni fa, quando frequentavo Maurizio Costanzo, e lei, se non ricordo proprio male, si presentava con una bottiglia di urina. E come no? Poi non ho capito che cosa. Beh, faceva l'urinoterapia. La beveva, faceva l'urinoterapia. L'urinoterapia, beveva l'urina, beve anche l'urina. No, immagino. I risultati sono stati scarsi, mi pare, dopo 20 anni. Si dice ancora queste cose che sono oppure evidenti, cioè no, forse no scarsi, ma non lo so perché non seguo il follow up della signora. Mi hanno ricordato, me l'ero scordato, che la Brigliadori in realtà ha iniziato la sua carriera come annunciatrice Mediaset, è stata una delle prime. Beh, vabbè. No, ma per dire, cioè, dettaglio. No, dettaglio, sì, certo, ma me lo ricordo. Sì, bisogna parlare con chi faceva il casting allora. No, il problema è un altro, però siccome stiamo parlando di cancro, non stiamo parlando di cosa voti domenica, che è abbastanza. Comunque il casting lo faceva pure Berlusca all'epoca, cioè, anzi direttamente Berlusca. Ma penso proprio di sì. Sì, lo faceva direttamente Berlusca. Vabbè, penso, Sì, per carità. Tanti auguri al primo presidente. Assolutamente. Sì. Dunque, detto questo, siccome si parla di cancro. Siccome in questo momento magari c'è anche qualcuno che ci sta sentendo, che sta facendo chemioterapia, che sta sperando, eccetera, ecco. Allora, mettere sullo stesso piano il pensiero libero di questa signora e di chi ha lavorato per 40 anni in questo campo è delinquenziale. E dunque chi è stato delinquenziale, secondo non te? Non lo so. Cioè Costanzo, io non faccio nomi e cognomi. Io sto dicendo, no, ce ne sono stati diversi. perché abbiamo avuto varie cose in questo ultimo mese, lo sai benissimo. Ma i vaccini, quella roba là. Ti par poco. Ho capito, ma che cos'è delinquenziale? No, cioè, ho quello... capito, perché noi siamo un paese con il metodo stamina. Ho capito, ma non vanno invitati in televisione? Non va invitata in televisione, secondo te, a parlare di queste cose? Non capisco. No, non si può mettere sullo stesso piano. Non si può. Cioè un medico, dice un medico e la una persona veronesi sì. Non può valere tanto quanto la Brigliadori. Sì, però, se parlano questo è il punto di meteorologia, sì, però è uno show. Ho capito, ma non è un consesso scientifico, è uno show in televisione, chiaro. No, aspetta, tu lo sai perché tu fai comunicazione. Ma sì, d'accordo. Però una persona che deve fare domani mattina la terza cosa di chemioterapia, sente queste cose qua e pensa che forse bersi un bicchiere d'acqua e non mangiare carne o di urina lo faccia resuscitare. Ma allora, no, ma questa no. Cosa qua è delinquenziale perché giochi sulla disperazione. Cioè, secondo te la Brigliadori è una delinquente, allora, è una criminale? No, io sto dicendo che no. Non cioè, lo farla dico, parlare insieme. Farla parlare insieme ad un avvocato. Parla... Che le sue parole non possono avere lo stesso peso scientifico e probatorio. Ma nessuno lo mette sullo stesso lavora piano. E no, che se lo metti sullo stesso. Senti, a proposito, prima di lasciarti, voglio chiederti una cosa: ma tu quante docce ti fai a settimana? Docce, sì. Basta. Ogni giorno? Adesso non le come. Cioè, ogni giorno ti fai la doccia o no? Ma dipende. Ogni giorno ti fai la doccia o no? Purtroppo sì, più o meno, sì. Ogni sì. Giorno. Errore, sì, errore. Vedi, professore. Errore, errore. Faccio ogni giorno. Quel maiale di no, di errore. Sono supportato, sono aiutato dalla comunità scientifica. Errore. Andare, perché così non viene il cancro. No, quello no. Tre volte a settimana perché... fa male. Hai mai fatto la pipì sul lavandino? No. Sì, anche sul treno del lavandino, perché piuttosto che usare il butter close di un treno è bravo, questo anch'io l'ho fatto ogni tanto, è vero. Ma che porcheria, scusa. Ma quella è stupenda, sì, è vero. Questa è buona, questa qua. Anche in treno, pur di non utilizzare il cesso normale del treno sporco. Ma professore, ma uno si immagina... No, quello lì ci avrebbe ragione la Brigliadori, che si ammala. È su quel cesso lì, perché ci sono, io sto parlando dei vecchi treni, no, ma anche quelli di adesso, rossa, che sono molto, anche quelli di adesso, no, la Freccia Rossa è molto sto parlando dei vecchi treni di una volta che ma mi dicono che esiste una luce. Tu hai un parente che si chiama Luce, David? Luce Parenzo esiste? Sì. Lui adesso non si ricorda, ma Luce Parenzo era una ragazza stupenda la sorella Parenzo, che non so che non sono... No, sorella no, perché non ce l'ha, no. Ma una ragazza stupenda di Padova che si chiama Luce Parenzo, esiste? La Parenzo, sì. La conosci? No, tu? Esiste Sara Parenzo, non Luce. No, Luce Parenzo, non la conosci. No, l'ha conosciuta Crepè anni fa, dice che è una roba meravigliosa, stupenda. Sì, era una donna. Una figa pazzesca. Una ragazza meravigliosa. Una figa incredibile. Duretto. Lascia stare, perché Cruciani è veramente morboso in queste cose. Sì, professore, mi scusi anche un attimo. Anche delle cose di 40 anni fa, figurati. Mi dicono che esiste già un vibratore d'oro, un marchio pare più figo del mondo, costa 12.000 euro. Però, professore, secondo te... Lo vendono a Ponticelli. No, 12.000 euro, hanno vinto addirittura dei premi di design. Volevo chiederti questo, professore, dal punto di vista scientifico. È normale, secondo te, tenere nella borsetta il vibratore? Cioè, Cruciani, assolutamente dice, è normale. Una donna senza vibratore non è una vera femmina. Ecco, questo dice. Assolutamente. Una donna senza vibratore nella borsetta non è una vera femmina. Diamo un giudizio definitivo. Ma anche piccolini, non esistono solo i vibratori d'oro da 12.000 euro. Io credo che non sia una cosa. Anche i plug, li conosci i plug, normale. Parenzo? I plug. No, evidentemente abbiamo frequentato femmine diverse. Ma Parenzo non sa nemmeno che cos'è un plug. Sai che cos'è un plug, Parenzo, o no? Io cos'è l'unplug? Il plug, lo conosci o no? Sai cos'è il plug? Vabbè, ma non posso parlare con te se non sai cos'è un plug. È un acronimo amico. Che sta ma per non cosa? Puoi stare in questo mondo se non conosci cos'è un plug. So cos'è lo spread, però, ad esempio. Ma sì, lo spread lo saprai genericamente, ma se non sai cos'è un plug e come si usa un plug, amico mio, ma pure il professor Crepè, uno non può fare il professore se non sa cos'è un plug. Che rende disponibile. Cioè, non puoi fare il professore, non puoi vivere in questo mondo, te lo dico Paolo, se non sai cos'è un sì. Ma come si scrive plug? Adesso come diceva Troisi, mo me lo scrivo. Ecco, ho avuto plug sesso, andatevi a vedere che cos'è plug. È una spina, va bene, plug. Stasera passerò. Ma auto... tu dovresti fare una trasmissione come quella che faceva Ferrara. Bravo, anni fa. Bravo. Lezioni di sesso. Assolutamente, sono pronto. Eccomi. L'Italia qui migliorerebbe a vista d'occhio. Sono qui, arrivederci. Ciao. Pronto il telefono, amico? Ah, è la Zanzara. Vabbè, è uguale, dai. La Zanzara. Allora, Cruciani, ti dico solo Google Map Roma Salaria Sky. Arrivi, Sky trovasci sulla destra, scorri. Sister Hotel e lei, Susanna. Beh, siamo al top, siamo veramente al top. Stamattina ho stretto le mani a un collega e ho pensato, chissà se si è lavato le mani dopo aver pisciato poco fa in bagno. E mi è partita la menata. Siamo al top. Si potrà mai dare asilo a delle persone che chiamano bravo ragazzo un soggetto che ha tirato una coltellata in faccia a un carabiniere? Ma che asilo bisogna dargli a questi? Fuori dai coglioni, tutti, uno dopo l'altro. Questi che manifestano per queste puttanate, fuori, a casa, che in mezzo alla guerra ci state benissimo. Cruciani, siamo a 6 km dalla dogana di Chiasso. Ci fermiamo al Maxim. Traffic. La Zanzara. Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni. Ragazzi, non avete idea di quanti messaggi, quante mail, quante foto addirittura ho ricevuto da ieri sera, quando è intervenuta alla Zanzara la mitica Susanna, prostituta sulla Salaria, prostituta in bicicletta sulla Salaria, che orgogliosamente fa la prostituta. Parenzo dice perché non può fare altro. Beh, certo, no, l'ha detto anche probabilmente lei, se vuoi fare dirigente d'azienda, preferisci fare dirigente d'azienda piuttosto che la prostituta, magari. Oppure no, non lo so, ma credo no, di ma sì. No, ma ho detto questo, ho detto semplicemente che quando gliel'abbiamo chiesto, lei stessa ha detto che i suoi figli si vergognano molto per il suo lavoro. Questo... Ma l'ha detto lei. Ma no, ho capito, io. Ma questo è abbastanza normale, perché è evidente. Ma è normale, no, tu non dovresti dire no, che è normale. Ma perché? Allora, per me la prostituzione è un lavoro come gli altri. L'ho detto più volte. È evidente che siccome c'è di mezzo il sesso. Ma e se c'è... a casa tua ci fosse qualcuno no, che c'è... esercita questo mestiere. No, ma c'è un'altra non questione. Non saresti in imbarazzo. Ma no, in... ma in imbarazzo no, per le persone no. Sarei, come dire. Siccome ha a che fare con il sesso. E con tutte le implicazioni, no, un'altra cosa, tu personalmente sì, se sì. A casa tua, io non te lo auguro ovviamente, perché avrai soltanto se qualcuno fa la, fa la prostituta a casa mia, sì, o il prostituto a casa mia, quel mestiere, ma sicuramente no? Non sarebbe, ti vergogneresti, non è che lo fa, ma che bello, c'ho la zia che è una puttana, non credo, ma no, credo, non lo so, no, ma magari è normale, magari puoi gioire, non ti sto chiedendo, no, gioire so. No, ma nemmeno dire oddio fa la puttana, che vergogna, no, quello no, quello no, non mi vergognerei. Ah bene, sai cosa fa adesso? No, non mi vergognerei. No, la puttana. Non mi vergognerei. Comunque, la meravigliosa Susanna. Susanna from Salaria. From Salaria. Perché non restavi negli alberghi con i businessmen? Perché mi hanno detto il cazzo i papponi in via Veneto. Mi hanno detto tu qua sei richiesta, vaffanculo. Io ho paura, la mafia, le cose, me ne sono andata. Cioè, perché... meglio battere per strada sulla Salaria con la bicicletta? Eh sì, perché lì non, alla fine ho conosciuto tutti, puttane, papponi, polizia, carabinieri, cioè qua la cosa è fattibile, quindi io continuo. Senti Susanna, diglielo un po' a Parenzo che non signora, sei sfruttata, ecco, sono, che non sono, sei sfruttata, no, vabbè, diglielo, lei non diglielo. Sarà, no, lei... io sono sola, di mia ma... libera iniziativa, sono libera e felice di farmi scopare da chi mi piace. Beh, questo adesso... E io sono felice così. Susanna, ma quanti anni hai? Ma io sono grande, amore. 50? Però, se 50. Mi vedi, sono un pezzo di figa. Vieni sulla Salaria a vedermi. Amica mia, io sto adesso, a Milano. Però, sto... Non si può dire alla radio sta roba. Sei a Milano. Vivo a Milano io, amica mia. Ma senti, che punto è della salaria esattamente? Dove stai, guarda, tu? Guarda, io sto altezza Sky, infatti tutti quelli di Sky ormai sono diventata qui. Ma sono clienti fissi, diciamo. No, ma che sì, dai, ma figurati. Io penso che mi sia fatta tutta Sky, senza saperlo. Aspetta che mi si avvicina un cliente. Bravi, vedi un po'. Cliente in diretta. Bravi, fammi il cliente in diretta, bravissimo. Stupenda, numero uno. Ciao, che volevi venire? Sì, all'aperto in albergo. In albergo. Allora guarda, ti devi rigirare o fai retromarcia qui piano piano, perché sta qua, ma guarda, certo, tornando indietro qua, questo qui con le bandiere. Ma non c'è una moglie, allora, questo qua? Allora entra, scusa, qua all'aeroporto dell'Urbe e ti rigiri. Ci vediamo là, aspetta. Ma là, non c'è una, okay, moglie questo qua? Scusa, ma che... Ma guarda, allora... Chiedigli se c'è una moglie quello. Qua. Sono tutte gente che... Tutti i businessmen che vanno di corsa così, però gli piace tanto un pompino così fatto da Dio, perché dice? Li faccio da Dio. Da me tornano perché trovano una donna che gode. Cioè, vabbè, io adesso, non sono però una puttana. Sei vera, no, sei vera, ti amo. Io sei sono vera, io bacio sulle labbra. Quando mai una puttana bacia? Ma certo, io pure, questo è, pure questo è vero. Mando via un sacco di, cioè, gente. Cioè, per esempio, io chi mandi via? Tutti andrei via col triplo dei soldi. Ma io mando via, a me la gente che mi fa schifo non mi va di... Tipo? Tipo chi? Panzoni? Bello, Panzoni, chi? I panzoni, i grassoni, la gente sporca, i camionisti sporchi, luridi. No, no, io non vado con questa gente. Io, guarda, che il tipo di clientela che ho io, sono tutte persone per bene, normali, che lavorano, di tutti i ceti sociali. Beh, da, normale, dall'operaio a... Oh, ciao! Chi un è? Altro cliente in diretta. Chi è? Chi è? Chi è? Questo è un bellissimo uomo. Stupendo. Ah, già lo conosci, allora? Sì, sì, sì. Tornano tutti. Dai, parlaci un attimo, parlaci, dai. Ciao, tesorino, vieni? Tesorino. Vieni, vada a lavorare questo qui. Trattativa. Amore. Brava però, hai visto che capacità di seduzione. Ma che brava, ma sta cercando di seduzione! Ma sta cercando di convincerlo. Secondo solo? Un degrado. Ma che degrado? È la vita normale di tutti i giorni. Ma pensa ai poveri figli che dicono i genitori. Ma ho capito, ma viene a giocare bene a casa mia. Dice, ah, che bello, che lavoro fa la mamma? Ma prostituta. Vabbè. Prestazione quanto costa? Ma no, ma perché vuoi sapere i prezzi? Ma dai, ma dimmi i prezzi, ma che te frega? Ormai... Tanto si sanno i prezzi, no? 100? 100 a botta, quanto è? 100? Ma no, ma va, qui è basso il budget, è da 30, 50, mamma mia, 70, oh, è basso qua, perché qua è di passaggio. Cioè, servizio gente... completo quant'è? 70? No, no, no, completo in albergo è 100-200 euro. Al volo, sì, così, al volo? Al volo così, 30, 50. Questa storia della moglie e marito, cioè perché sei passata alla strada? E questa è la cosa curiosa, cioè... Perché alla strada, perché io adoro pedalare, io vado in bicicletta, no? Sì, e come sei vestita di solito? Di solito, di solito come te vesti? Io vado in giro col pantaloncino dentro al culo. Quanti ne fai al giorno? Ma dipende, quando va male 5, 10, bene 20, 30, dipende. Ma tutto sempre protetto, sì, oh? Sì, sì, sì, certo. Ma che sei matta, ciao, ti abbraccio, ciao, ciao, baci. Allora, abbiamo scoperto anche che Susanna è una grandissima ascoltatrice della Zanzara. La prima cosa che ci ha detto ieri quando l'abbiamo chiamata: Cruciani, ma davvero sto parlando con te ogni sera, sì, ti sento ogni sera. Idolo delle prostitute, va benissimo. Ma no, idolo delle prostitute, mica solo lei naturalmente, però mi fa piacere. Chiamasse mai un notaio per dire ma che... Chiamano anche i notai, come chiamano gli imprenditori, come chiamano i manager, chiamano i camionisti, però gli operai. Però guarda caso sei, ma scusa, idolo delle prostitute. Ma hai visto le nuove divise agghiaccianti dell'Alitalia? Ma ne vogliamo, sì, ma parlare? L'altra cosa è che tra l'altro sono... C'è questa polemica per il fuoco, perché non sono... Sì, che pare non siano, no, sì, non siano, non proteggano dalle fiamme, là, che dalle cazzo? Fiamme, ma sì, questo è un dettaglio, ma soprattutto sono bruttissime. No, ma è una roba incredibile. Io oggi ero in aereo sulla Alitalia, proprio, da Roma a Genova. Ah, ma avevano già le nuove divise? Sì, e avevano già... Quelle con le calze verdi e il cappello rosso? Calze verdi, lei stessa gliel'ho chiesto alla hostess, gli ho detto, ma insomma era imbarazzata, lei stessa. Scusi, chi è che le ha disegnato? Ma saputo dire, ma sarà un arabo di questi qua nuovi? No, è un italiano, è un ragazzi, italiano. Ma bisogna veramente vergognarsi come e ladri. E le ho detto, scusi signora, ma il velo davanti, ci manca solo quello, ha detto. Ci manca solo quello. Ma la roba è incredibile, cioè tutto rosso, le calze verdi, vedo qua i guanti verdi, un cappellino, ma è una roba veramente imbarazzante, ma come cazzo si fa? Sì, non hanno senso. No, ma come si fa? Ma è veramente osceno a vedersi. Poi, per carità, viene notata e dunque forse una funzione ce l'ha. Però è osceno, una cosa oscena. Vabbè. Dopodiché è importante che gli aerei arrivano puntuali. Ma sì, ma chi se ne frega, però... poi alla fine, per carità, non è quella la cosa fondamentale. Però tu vedi un hostess e... E non sono il massimo. Cioè, hanno voluto fare il bianco, rosso e verde, dove il bianco in realtà non si vede, forse la pelle. Cioè, bianco, rosso e verde con queste, questo verde delle calze. Che veramente... Ma quale donna metterebbe, italiana, mette le calze verdi? No, ah, ecco, è esattamente quello che diceva. Dai, Salvatore, sì. Latina, vai. Salvatore, pronto? Dimmi, dimmi, Salvatore, dimmi. Sì, allora, volevo parlare del fatto dei, degli extracomunitari. Allora, vai, vai. Qua vedere i cartelli, praticamente, carabinieri razzisti e cose... Fuck carabinieri, fuck carabinieri. Razzisti e assassini. Sì, poi razzisti a noi, siamo il paese, montagna, paese razzista, portava, l'Italia, no, è ridicolo. Che bella cosa. Allora, io voglio parlare della situazione di Formia. Che praticamente è una cosa indescrivibile. Da quando sono venuti qua hanno invaso tutti i semafori a chiedere l'elemosina. Sì. Le farmacie, i supermercati. Ma chi? Chi? Tutti questi extracomunitari. Ma perché a Formia che c'è? Nessuno. Un campo profughi? Che c'è a Formia? Sì, diciamo, lo stanno facendo diventare. Praticamente il sindaco sta facendo affittare tutte le case sfitte e sta dando a questi. Non fanno la differenziata, vanno in bici, in controsenso, sono i padroni. E poi anche gli italiani vanno in bici in controsenso, adesso non è che tu dici vabbè, Formia invasa, dici Formia invasa dagli extracomunitari, vabbè. Esatto, praticamente le tessere a loro non gli servono, servono i soldi in contanti, Cruciani. E ce l'hanno o no? Per quale motivo? Perché? Ah, perché a me mi hanno rubato la bici 2 mesi fa. Sono andato a fare praticamente la denuncia ai carabinieri. Allora? Sì? Hanno detto che sono aumentate del 300%. Vanno in bici, sì? Con le bici rubate, non di qua. Sì, ho capito, Formia, ho capito. Perché quelle di Formia, notizie da Formia, ciao ciao. Cruciani, sei un figlio del demonio. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Crucià, è inutile che ci giriamo intorno. Buon anno è stato liquidato come è stato liquidato Haider, come ha cercato di liquidare quello inglese, anti-europeista, e come hanno liquidato alle elezioni molto sporche in Austria Hofer. Ormai lo sappiamo. I lobbisti ebrei vogliono che l'Europa non salti, perché hanno troppi interessi economici, sti bastardi. E qui ha fatto un salto di qualità nella sua teoria, Maurone. Chiamate il medico! Chiamate il medico! Io lo denuncio veramente, questo che mi sono stufato. Stavolta, ma che te ne frega, dai! Basta, ma che denunci? Ma chiamate il medico, dai! In questo caso. Mi sono stufato. Vedete che quando gli arriva a casa l'avviso di indagine dei carabinieri. Ma perché cosa? Perché cosa? Dai, su. Per istigazione all'odio, per ma reati dai, che ormai su che istigazione all'odio. Vedete che lui continua a commettere reati. A proposito, il giornale sabato distribuisce gratuitamente il Mein Kampf di Hitler. Dice il signor Sallusti ha deciso. È pronto. Come? Pronto? Sì, eccomi. Sì, Sallusti, buonasera. Sì, buonasera. Heil Radio 24. No, esatto. Perché Heil Radio 24? Perché Heil? È normale, in tedesco, vai in Germania, come saluti la Merkel, gli dici Heil. Ma no, ma non si dice più Heil, Sallusti. Ma come mai questa iniziativa avete preso di distribuire gratis? Guardi, è un libro fondamentale perché qualcuno tanti anni fa ha scoperto il modo, cioè c'è un problema legato appunto all'immigrazione. Ah, un libro attuale, dice lei. È un libro di grande attualità. Voi non voglio dire niente, sì, potevamo certo pubblicare magari lettere dal carcere di Gramsci, qualcuno voleva superato, fa schifo, okay. Oppure uno potrebbe pubblicare dei libri di storia normali, sui normanni, sul medioevo. Abbiamo deciso questo libro perché indubbiamente è molto Kampf, però. Attuale, la mia, certamente, anche la Merkel fa la sua battaglia, ha scritto un libro Mein Kampf sulla Germania, Fräulein Merkel. No, ma non è nessuno, vero, non ha scritto. Nessuno si è scandalizzato. Ma perché proprio? Che c'entra ora, l'immigrazione? Di fronte al pericolo di Sala, che sta facendo una sorta di invasione della città di Milano, ci sembrava giusto rispondere con la solidità di testi che hanno lasciato uno spazio nella storia. Ma è Hitler, signor Sallusti, cioè, perché c'entra con l'immigrazione, Hitler? No, Semplicemente un tedesco, mi pare. Ah, perché ha trovato dei metodi. Voi siete sostenitori della Germania, mi pare, oggi. No, ma non è vero, perché la Sole 24 no. Ore sostiene la Merkel. Io non posso sostenere un tedesco di qualche anno fa. Non ho mica capito il problema. Ma che ha a che fare con l'immigrazione, Hitler? Ma lui ha, diciamo, risolto il problema in modo forse, alle volte per qualcuno, un po' duro, sicuramente. Però mi pare comunque... fa discutere, ha lasciato il figlio. Beh, l'immigrazione. Vabbè, grazie, grazie. Allora, la violenza del web ogni tanto. La violenza è in realtà... tanto. No, mi piace perché dici ogni tanto. No, è la realtà. Perché è la ti fa proprio male dire, no, è condannare la qualcosa. No, è la rappresentazione male della realtà. Allora, tu dello come schifo, sai, c'è vabbè stato... No, ma la realtà, no, delle viscere delle persone. Sì, gente col vibratore, gente che fa la pipì. Allora, pleno. Aspetta un attimo. Come praticamente è stato definito l'accordo per il passaggio di un giocatore della Roma alla Juventus, tale Pjanic, non so se lo sì, conosci, tale Pjanic. Sì. Per 30, conosco, 30 milioni di euro, eccetera. Quanto? 30 milioni, eccetera. Vabbè, ma lascia perdere. Allora, senti alcune delle reazioni che ci sono sul web di tifosi della Roma nei confronti di Pjanic, cioè come se avesse commesso un delitto, se non addirittura peggio. Allora, uomo di merda, goditi il sole che a Torino solo nebbia e freddo vedrai. Sei un bastardo di merda, morto di fame, ti avevamo fatto un contratto da 4 milioni e te ne vai in quella squadra di merda. Ti devi rompere la caviglia e non giocare più a pallone, figlio di puttana. Pezzo di merda, stronzo, puzzi, schifoso, verme, tu e la tua famiglia, eccetera, eccetera. Maybe next week I'm gonna meet ya. I'll meet ya. Grande ritorno in Italia, grande ritorno alla Zanzara, Valentina Nappi, buonasera! Oh. Come andiamo? Beh, mi sto ancora riprendendo dal jet lag. Il jet lag? Ma che hai fatto? Hai fatto qualche porcheria pure in aereo, no? No, magari. Magari, non c'è nessuno che ti si avvicina, sono sempre curioso di capire. Allora, mi capitano sempre signore rompicazzo accanto, anziché un bel ragazzo. Lo so. Devo dire che ho visto le foto recentemente della signora Nappi. Veramente voglio dire complimenti per la trasmissione. Ma in che senso? Perché... Scusa, quali foto hai visto? Scusami. No, ho visto, ho googolato. Ma quali foto? Ma su Google magari ci sono foto vecchie. Dico complimenti per la trasmissione, perché davvero, insomma, complimenti, ecco. Ma complimenti, che c'entra? Beh, comunque, voglio dire a Valentino una cosa. Non mi è mai capitato a me di viaggio. Oggi ero in aereo, non c'era a fianco a me una Nappi, c'era una megera, una vecchia megera. Ma tanto tu non ci proveresti anche se ci fosse una bella ragazza vicino? No, ma che c'entra, ovvio che non ci proverei. Ma avere il sapore, cioè comunque anche l'idea di... No, voglio chiedere a Valentino una cosa, che è tornata proprio per le elezioni, ma adesso parleremo di politica. Per le elezioni è tornata? No, per le elezioni, per il ballottaggio. Non sono tornata per le elezioni. No, ma lo so che non sei tornata per le elezioni. Perché alle volte il tuo arrivo in Italia coincide con questo... Con le elezioni politiche. Con le elezioni politiche, esatto. Come sai... Più un ammosciamento. Sì, esatto, le elezioni... Le elezioni fanno ammosciare, non provocano erezioni. Lo sai, Parenzo, che la Nappi è considerata una pornostar comunista, diciamo, no? Così, sì, a me è sempre piaciuta, infatti, anche per questa sua passione politica. Ha detto che non andrebbe mai a letto con Salvini, quindi mi pare ottimo. Vabbè, insomma, quello, sai, mi pare quello... un simbolo straordinario quello... da tenere alta nella trasmissione. La Salvini, e Salvini c'ha la Isoardi, non credo che abbia voglia di andare con la Nappi. Però voglio chiederti una cosa: tu, non per esempio, so, ti vede per strada uno e ti dice voglio fare sesso con te, tu che cosa rispondi? Dipende. Dipende chi te lo chiede, sì, cioè, un bel ragazzo, uno che non hai mai conosciuto, ti chiede Valentina, facciamo un po' di sesso, così tu come rispondi? Dipende dalla persona certo che me lo chiede. Un bel ragazzo non significa tutto e nulla. No, ma vabbè, anche certo, ragazza, cioè voglio dire, no, sì, forse cioè... la prima cosa che chiederei, ce l'hai il test? Ce l'hai? Il test? Delle macchine trasmissibili. Aspetta che non ti si sente però, Valentina, non ti si sente, aspetta. Marco da Firenze, vai Marco. Sì, ciao Giuseppe, sono dimmi, in linea. Dimmi. Ciao, allora, voglio affrontare un problema che non è stato mai affrontato, gravemente aggiungo. Il tema della masturbazione in ufficio. Cioè? Come risolvere il problema quando sei in ufficio e ti piglia la voglia? Vabbè, amico mio, però uno in teoria si dovrebbe reprimere in questo caso, cioè, so, si dovrebbe controllare. E vabbè, ma ho capito, ma non c'è una regola in questo caso. E voglio sapere, appunto, sia Parenzo che te, come fate a risolvere questo problema, perché ci sono due soluzioni. Capitato, diciamo, a Parenzo non è mai capitato. A parte lui non capitava nulla, quindi neanche spalle seghe, quindi. Ma ho capito, ma se le farà in un'altra occasione, se se le fa, cioè, non è però che se le voglio in quel momento. E tu come fai? Scusa, perché me lo chiedi a me? Ho due alternative. La prima, aspettare, vado in via tutti. Mi collego su YouPorn. Ma quello che c'è? Vado via tutti e poi che fai? Vai in bagno? Che fai? Pure mentre ci sono gli altri, io vado in bagno. Vuol sapere. Ma non mi sembrano alternative particolarmente originali. Mi sembrano. No, però in ufficio con i colleghi accanto ho detto: voglio sapere come te magari risolvi questo problema. Ma non c'è soluzione. Se uno proprio è preso da questa voglia pazzesca, prende e va in bagno. Non c'è dubbio. Cioè, poi è curioso però che ti poi negli uffici non si può andare a consultare YouPorn così facilmente, poi ti beccano, ti fanno un mazzo così, cioè se dai computer quelli aziendali, dai computer di un'azienda non si può fare, capito? Vabbè, un po' Marco. Di particolare, ciao, buona serata, ciao. Can I play with madness? Vediamo se si sente Valentina. Mi senti? Meglio, sì, ti sento meglio. Senti, ma tu chi voteresti? Tu a Napoli voti, no? No, non ho votato, non voterò. Non voterai? In realtà non so nemmeno dove sia la scheda. Vabbè, la scheda quella si recupera, ma chi, se dovessi scegliere tra De Magistris, Letti e tu, manco sai chi è andato a ballottaggio a Napoli. De Magistris, se non sbaglio, volevo intervistarlo qualche anno fa per fanpage e ha detto di no. Allora? E beh, che c'entra adesso? Beh, giustamente. No, beh, mi... È antipatico, dici? Ti è antipatico? No, mi sa... Non capisco il perché. Sembra vigliaccheria. Però no, sono contenta. Ma chi voti? Non lo sai, se lui, Lettieri... Non voto. Non voti a Napoli? Non voto. No, no, no, in generale proprio no, non voto. Senti, ma quante scene di sesso hai fatto nell'ultimo periodo negli Stati Uniti? Una media di 10-15 al mese. 10-15 al mese. 10-15 al mese. Vabbè. Finalmente ho avviato il mio sito. Oh, bene, molto bene. Quindi presto vedrete finalmente cose dirette. Ma da qualcuno me. Ci ha detto, qualcuno ci ha detto che tu sei praticamente la pornostar italiana più pagata in questo momento. Ma è possibile o no sta cosa? Beh, non è che ho molta concorrenza. Ah, non c'è concorrenza, cioè in questo momento stai parlando di pornostar italiane. Sei la numero uno in Italia, diciamo la verità. Poi cioè... pagata in che senso? Pagata da chi? Vabbè, pagate in generale. Se intendiamo quella che fattura di più, quella che fattura di più in beh, generale. Questo non lo so. Bisognerebbe vedere quanto fatturano le altre. Ecco, ma all'anno tu quanto fatturi ormai col porno? Ma perché vuoi farmi i conti in tasca? Ma no, a parte che non è ormai, perché ci sono alti e bassi, per esempio, io ho girato soltanto tre scene. Ed è tutto un punto interrogativo. Senti, ma tu prima o poi lo vuoi avere un figlio o non te ne frega niente? No, siamo troppi al mondo, assolutamente no. Siamo troppi al mondo, addirittura. Sì, siamo troppi al mondo. Cioè, non hai nessun desiderio di diventare mamma? No, non è che non ho nessun desiderio, trovo che non sia quello il punto. Un figlio bisogna farlo per dovere, non perché voglia di fare un figlio è come una borsa, allora... No, ma quello compri no. La borsa, fai un figlio. No, ma è così nella maggior parte dei casi. E invece tu proprio per filosofia non vuoi farlo, diciamo, proprio perché non... Non si sente di non è necessario. Mamma. Non è necessario, sarebbe soltanto dannoso. Dannoso per chi? Per lui? Sì, perché siamo troppo il mondo. Per il mondo, per la società. Per la società. Bisogna smettere di figliare. Quindi ma io smetti di figliare, moriamo, cioè se smettiamo di figliare, in teoria. No, tranquillo, non... siamo molto molto lontani. Dall'estinguerci e sposarsi? Cioè del tipo? Cioè, ti vorresti sposare? Fare il contrattino. Contrattino. Fare il contrattino, no. Niente. Non lo trovo conveniente, almeno per ora. Senti, Berlusconi sta male, è ricoverato, ha un problema al cuore. Vuoi fargli gli auguri? No. Beh, poveretto, perché? Ma perché dovrei farglieli questa domanda? Non è che ti auguri, perché, non credo che ti auguri da pietà. Non credo che ti auguri che schiatti. No, non me ne frega un cazzo, è diverso. Non te ne frega nulla, cioè ma c'è qualcuno che tu, per esempio, che ne so, di cui ti auguri la morte, la scomparsa? Che ne so, cioè no. Cioè se muore non mi fa nessun effetto. No. No, e vabbè, meno male, almeno questo, cioè... Però è importante questo ritorno di cervelli in Italia, perché di fronte alla fuga di talenti all'estero, almeno è tornata in Italia e quindi potrà esprimersi. No, questo è fondamentale, adesso starà fino a settembre. Ma che intenzione di fare da qui a settembre in Italia? Non lo sai. Film. Ho un po' di cose... Trasmissioni, in televisione? Cantiere. Televisione? No. Ma se capita, ma non mi interessa. Ma non ti sei rotta le scatole di scene di sesso, gangbang? No, per nulla. Per nulla. Anzi? Mi manca, sono contenta di essere tornata. Però già ti manca. Una serie di cose, però sì, già mi manca il porno, mi manca girare. Perché in Italia non se ne parla di andare a girare, naturalmente. Cercherò di girare per il mio sito, il discorso casting. Però è un'altra cosa, certo, vabbè. Però sì, è assolutamente un'altra cosa, perché ahimè non ci sono professionisti. Certo, lo sai che Parenzo non sa nemmeno che cos'è un plug? Cioè non sa nemmeno che cos'è un plug? No, adesso l'ho visto in internet. Non sai cos'è un plug? No, ho visto adesso. Ma sai... Tra l'altro ho scritto un post sull'anale. Sì. Quindi tutti quelli interessati consiglio di andare sul mio sito, ventinanzi.com. Sull'anale, cioè sul sesso anale? Sì. Ah, beh, interessante. Poi approfondiremo. Senti, un'ultima cosa, ma che cosa ne pensi delle donne che vanno a letto con Salvini? Tutto il male possibile. Delle donne, vabbè, ma uno non è che può andare a letto con chi vuole, cioè... Bisognerebbe chiedersi perché si ha voglia di andare a letto con questa o con quella persona. Perché Salvini e non un bel muratore? Questa è la mia domanda. La lasceremo all'etere. Ciao, a presto, Vale, ciao. Zanzarosi, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.